Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17:08 fra una manciata di secondi. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, questa sera insieme a voi per Focus Economia, per raccontarvi la giornata economico-finanziaria, giornata molto intensa come sempre, non ci siamo fatti mancare davvero niente nel corso delle ultime giornate. Oggi ci focalizzeremo sia su temi interni che su temi internazionali, perché naturalmente entrambi i versanti sono ricchi di novità. Intanto ritorneremo a parlare dell'agenda del governo sul tema delle liberalizzazioni. Come sapete, venerdì è in programma questo Consiglio dei Ministri, dove dovrebbe essere varato questo super pacchetto con un gruppo di misure molto importante, e oggi sono continuate a circolare delle bozze sui provvedimenti appunto che il governo intende prendere. Ci sono novità per quello che riguarda per esempio il tema dei distributori di carburanti e tanto altro, ma oggi contestualmente a Roma è stato presentato anche un altro studio da parte di due think tank, di due organizzazioni che generalmente appunto hanno proprio il compito magari di sostenere le lobby a vari livelli, appunto, e così fornire loro magari dei contenuti su temi disparati, sui temi più disparati. Appunto, questi due think tank sono Glocus e l'Istituto Bruno Leoni, sono molto noti peraltro. Hanno presentato a Roma il rapporto Liberalizzare e Crescere, proprio con una serie di ricette che loro evidentemente auspicano il governo prenda in considerazione in questo momento. Sul tema delle liberalizzazioni ce lo faremo poi raccontare questo rapporto dagli uno dei curatori, da uno degli estensori, dagli uno dei collaboratori, appunto il professor Carlo Scarpa, che insegna a Brescia ed è uno dei massimi esperti italiani sul tema delle liberalizzazioni. Ma non sarà solamente questo il tema del quale parleremo chiaramente oggi. Ci focalizzeremo anche su quello che sta accadendo a Londra, perché il presidente del Consiglio italiano Mario Monti è anche alla ricerca di appoggi e consensi internazionali, sta facendo questa sorta di roadshow tra le capitali europee dopo l'incontro appunto con Angela Merkel. Oggi è la volta del Regno Unito. In questi minuti si dovrebbe concludere l'incontro che ha tenuto presso la comunità finanziaria internazionale al London Stock Exchange, cioè alla Borsa di Londra, per poi andare a tenere una relazione alla London School of Economics. Ha già incontrato Cameron e ci faremo raccontare più tardi dall'inviato del Sole 24 Ore che cosa è emerso da questi incontri. Peraltro oggi, a parte la comunità finanziaria internazionale e quindi gli investitori, secondo quello che si è appreso da fonti appunto inglesi e anche italiane al seguito del presidente Monti, il presidente del Consiglio dovrebbe aver incontrato anche una platea di investitori estremamente qualificati, amministratori delegati di grandi aziende che naturalmente guardano con grande interesse a quello che accade nel nostro paese. Parleremo della borsa. Oggi è stata una giornata prevalentemente incerta, perché hanno preso più volte direzioni diverse gli indici. Adesso Milano si sta avviando a chiudere la seduta con un ribasso dello 0,4%, lo spread ben al di sotto dei 500 punti base, siamo sui 4,64 da questa mattina, e il mercato oggi guardato anche positivamente a delle aste che si sono tenute sia in Germania ma anche in Portogallo, che sono andate bene, non avevamo nessun dubbio sull'esito di quella tedesca. Chiaramente al Portogallo si guardava con un po' più di attenzione, ma è andata bene anche questa, perché il Tesoro portoghese è riuscito a collocare bene queste obbligazioni per un importo anche abbastanza contenuto, 2,5 miliardi di euro, ma insomma l'asta è andata bene e i tassi di rendimento sono risultati in calo anche qui. Poi parleremo anche di tante altre cose. Come sapete, l'altro grande tema che viene monitorato attentamente è il giudizio delle agenzie di rating sul nostro paese dopo Standard & Poor's. Ieri si è appreso che circolava nel mercato la notizia che anche Fitch sarebbe pronta a declassare l'Italia. Ormai queste notizie non fanno più notizia per l'appunto, però oggi i vertici di Fitch hanno tenuto un incontro a Milano e vi racconteremo più tardi appunto che cosa è stato detto. Però in ogni caso anche da parte di Fitch si parla di una possibile nuova scure un nuovo taglio e anche appunto i vertici di Fitch hanno ammesso che per l'Italia è stata valutata l'opzione di un taglio di 2 gradini, ma non ci aspettiamo, è stato rassicurato appunto il default dell'Italia. Questo è un po' il quadro dei principali temi dei quali parleremo oggi. 349-238-6666 il numero per i vostri sms se vorrete commentare con noi i fatti del giorno. Adesso le altre notizie in breve. Saluto subito un ascoltatore, Enrico, che ci dice: buonasera, volevo chiedervi perché nessuno parla dello sciopero della Sicilia, lo faremo anche noi, Enrico, fra qualche minuto, perché abbiamo fatto alcune interviste, le ha fatte per noi uno dei protagonisti di questa agitazione, la nostra Valeria De Rosa, poi vi faremo ascoltare appunto qual è il clima, e non ne parlo ovviamente di quello meteorologico anche in Sicilia. Allora, le materie prime, la prima notizia in breve della giornata, come sempre, il petrolio aperto a New York a 101,14 dollari al barile, continua a correre il prezzo della benzina nel nostro paese, qua ormai anche questa la notizia che non fa più notizia, punte di di 1,84 euro al litro. Per quello che riguarda invece l'oro, anche in questo caso siamo in crescita come quotazioni a 1.654,48 dollari l'oncia oggi. È ripresa in pieno la stagione delle trimestrali americane, oggi un altro gigante della finanza ha rassegnato i suoi risultati. Goldman Sachs ha chiuso il quarto trimestre con utili in calo del 58% a circa 1 miliardo, $1.84 per azione, dai 2,39 miliardi dello stesso periodo del 2010. Pensate che l'utile per azione nel precedente esercizio era di $3,79. Il risultato comunque risulta essere superiore alle stime degli analisti che puntavano su un utile per azione di $1.23. La domanda di asset finanziari americani è salita in novembre a 59,8 miliardi di dollari in seguito alla crisi del debito in Europa, lo ha affermato il Tesoro americano sottolineando che gli acquisti sono aumentati in novembre dell'1,7%. La Cina si conferma il maggior creditore estero con 1.130 miliardi di dollari di titoli americani, il Giappone è il secondo creditore. Nuovo record oggi, anche qua ormai ne raccontiamo uno al giorno, dei depositi ad un giorno delle banche dell'Eurozona presso la Banca Centrale Europea. Ieri i depositi overnight hanno raggiunto i 528,2 miliardi di euro dai 501,9 del giorno prima, quindi praticamente 27 miliardi in più da un giorno all'altro. Il Fondo Monetario Internazionale punta a rafforzare le proprie risorse a 1.000 miliardi di dollari per salvaguardare l'economia globale da un peggioramento della crisi del debito in Europa. L'ha detto un funzionario del G20 all'agenzia Bloomberg, precisando che il Fondo Monetario conta di raggiungere un'intesa al G20 del 25-26 febbraio. Tra l'altro la Gran Bretagna si sarebbe dichiarata pronta a valutare una richiesta del Fondo Monetario per un rafforzamento delle risorse a sostegno delle economie in crisi, e l'obiettivo del Fondo Monetario sarebbe quello di raccogliere 500 miliardi di dollari e più di ulteriori appunto risorse da prestare. Questo è quanto avrebbe affermato poi proprio lo stesso Fondo. Dichiarazioni odierne del presidente francese Nicolas Sarkozy: la Tobin Tax è moralmente giusta ed economicamente indispensabile, l'attuale situazione economica in Francia come in Europa è molto pericolosa, c'è urgenza, ha ammesso il presidente francese nel corso del summit di crisi all'Eliseo con i rappresentanti dell'industria e dei sindacati, e si sarebbe lasciato andare Sarkozy anche ad un inatteso fuori onda: il declassamento della Francia da parte di Standard & Poor's fa male, ha detto, naturalmente è stato un commento rigorosamente off the record, anche se non immaginavamo un giudizio di nessun altro genere, e nell'attuale crisi che scuote l'Unione Europea il problema è la governance europea, ha detto anche Sarkozy, paghiamo cara l'ortodossia tedesca. Anche questo è stato un commento rigorosamente off the records. Dicevamo del Portogallo prima, che stamane ha collocato titoli di Stato a 3-6 mesi e a 11 mesi per il massimo importo prefissato di 2 miliardi e mezzo, con tassi in calo e una buona tenuta della domanda, in particolare per la scadenza a dicembre 2012, 1 miliardo e 250 milioni di euro, il rendimento medio è sceso al 4,98% dal 5,9% dell'ultima asta a 12 mesi, quindi un punto percentuale secco, mentre la domanda domanda ha registrato un lieve calo superando l'offerta di 2,1 volte. Anche la Germania oggi ha collocato titoli di Stato a 2 anni, sono gli Schatz, per 3,44 miliardi di euro, poco meno dell'importo massimo prefissato di 4 miliardi, registrando una forte domanda, un deciso calo dei rendimenti. Qua a questo punto veramente raschia la terra la Germania, il rendimento medio è stato dello 0,17% contro lo 0,29% dell'analoga asta del 14 dicembre scorso. Vabbè, cercare la sicurezza, ma davvero ci chiediamo quale investitore vada cercando in questo momento rendimenti di questo tipo, che praticamente sono assolutamente zero e anche al di sotto, considerando probabilmente anche l'inflazione. In Italia ancora un paio di notizie, poi andiamo subito al primo approfondimento di oggi. Vabbè, andiamo subito, tanto di Fitch parleremo dopo. In Italia crolla la domanda dei mutui, l'ha rilevato il CRIF, che è la banca dati del sistema bancario dove si trovano tutte le informazioni sul merito creditizio delle famiglie e delle imprese italiane, meno 19% sulle 2010. Andrei a farvi ascoltare invece una dichiarazione, qualche dichiarazione appunto di Mario Monti, non da Londra, sono quelle che ha rilasciato il Premier ad un'intervista alla Radio Vaticana. Monti ha detto: serve una maggiore coesione europea, serve combattere un rischio grave, cioè che l'euro, punto di arrivo, perfezionamento di un processo e pinnacolo molto audacemente innalzato sulla cattedrale dell'integrazione europea, si trasformi in un fattore di disintegrazione. Sentiamolo. Serve una maggiore integrazione europea e serve combattere un rischio grave, e cioè che l'euro, visto come punto di arrivo, come perfezionamento di una integrazione e pinnacolo molto audacemente innalzato sulla cattedrale dell'integrazione europea, si trasformi invece in un fattore di disintegrazione, di conflitto psicologico. Ora, pensare che la causa della crisi sia l'euro è non solo un errore economico, ma un pretesto, o peggio, un tentativo di scaricare sull'Europa problemi anche di altre realtà che coinvolgono ulteriori responsabilità e ben altri interessi. È però responsabilità di noi europei aver lasciato consolidare la sensazione a volte che la moneta prevalesse sulla bandiera dell'Europa. Oggi rinunciare all'euro significherebbe abbandonare all'incertezza i più deboli e i più poveri. L'euro resta uno strumento, pur di straordinaria incidenza nella vita delle persone, ma non è il fine dell'azione comunitaria, che resta il bene comune. La crisi si supera alzando la bandiera dei valori sopra gli stessi interessi della moneta. Cambio di musica per introdurre subito il primo approfondimento di oggi, un tema sul quale vi abbiamo veramente stressato a lungo, continueremo presumibilmente a farlo ancora per molte settimane, perché è una settimana decisiva per la liberalizzazione. Venerdì è previsto il varo del decreto legge da parte del Consiglio dei Ministri, che contiene numerosi provvedimenti in ogni campo, come abbiamo più volte raccontato negli ultimi giorni. Questa sera peraltro per le 19 il governo ha convocato i tassisti, Glocus e l'Istituto Bruno Leoni, due grandi think tank, hanno presentato oggi il rapporto Liberalizzare e Crescere, 10 proposte al governo Monti, che è un rapporto che contiene proprio una serie di proposte di liberalizzazione a costo zero per il bilancio dello Stato. Ha collaborato con l'Istituto Bruno Leoni per la stesura di questo rapporto il professor Carlo Scarpa, professore ordinario di economia politica all'Università di Brescia. Lo abbiamo raggiunto poco fa, prima dell'inizio della nostra trasmissione, lui oggi era a Roma e chiaramente ci siamo fatti raccontare che cosa contiene questo rapporto, ma la prima domanda che gli abbiamo fatto è se oggi è stato possibile per lui muoversi in taxi. Sentiamolo. Assolutamente no, perché non c'era un taxi da nessuna parte, per cui oggi si usavano i mezzi pubblici, si camminava, per fortuna una bella giornata. Che cosa ne pensa di questa protesta, che probabilmente è una di quelle che anticiperà la protesta che faranno magari molte altre categorie non appena questo pacchetto di provvedimenti vedrà la luce? Abbiamo già visto in qualche maniera qualche anticipazione da parte del settore farmaceutico nei giorni scorsi, niente che ci sorprenda, ma probabilmente forse qualche contestazione si esaspererà nei prossimi giorni. Le chiedo un po' un commento su questo prima di andare nel merito del vostro studio. E intanto teniamo conto che qualcuno ha parlato impropriamente di sciopero, lo sciopero lo fanno i lavoratori dipendenti, questa è una serrata. Detto questo, c'è modo e modo, evidentemente è del tutto legittimo esprimere il proprio disaccordo. Credo che quello che è successo ieri, in particolare non sono al corrente di cosa sia successo stamattina, però quello che è successo ieri sicuramente rende certe posizioni dei taxisti assolutamente irricevibili e rischia di ritorcersi anche loro contro. Ogni protesta civile è assolutamente legittima, attenzione ai toni perché rischiano di chiudere completamente il dialogo. Quello che è successo oggi è che nella capitale in particolar modo ci sono stati molti disagi perché, come lei ci raccontava poco fa, sembra che i taxi praticamente a disposizione del pubblico siano stati praticamente inesistenti. Ci sono anche delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Monti in queste ore a Londra. Stamattina ha rilasciato Monti un'intervista a Radio Vaticana e all'Osservatore Romano e ha detto: le liberalizzazioni sono un insieme di misure per introdurre nell'economia e nella società italiana, con una più sana concorrenza, maggiori spazi per il merito, soprattutto a beneficio dei giovani, degli esclusi. Professor Scarpa, ci racconta che cosa contiene il rapporto che avete presentato questa mattina a Roma? È un'analisi di 10 settori, in particolare diciamo 8 veri settori nei quali si richiedono degli interventi di liberalizzazione e altri magari sui quali si richiedono degli interventi per rilanciare la crescita, quali il tema della giustizia e il tema dell'università. Quindi un'analisi settore per settore, rispetto alla quale diciamo, la mia osservazione è stata soprattutto attenzione, perché è vero che settore per settore ne abbiamo degli effetti positivi, ricadute positive, probabilmente positive per la crescita, ma l'effetto ancora più importante forse è quello di liberare le risorse da certi settori e costringere le persone a competere, a spingersi nei mercati competitivi. Quindi è un problema di riallocazione delle risorse, soprattutto più ancora che di liberare risorse all'interno dei settori. Ci può fare qualche esempio per chiarire meglio questo concetto? Ad esempio il fatto che ci siano delle rendite di posizione molto forti in alcuni settori significa che le persone sono indotte a rimanere all'interno di questi settori invece che andare in settori nei quali la produttività sarebbe maggiore, ma però sono esposti alla concorrenza. Quindi di fatto io penso a tante imprese che nel passato sono rimaste nel settore delle autostrade invece che continuare a operare nel settore del tessile, nelle telecomunicazioni piuttosto che continuare a operare nel settore della gomma, eccetera eccetera. Avere delle rendite di posizione attira delle risorse e sposta il capitale dove queste rendite di posizione ci sono. Sarebbe molto più opportuno per il paese spingerlo dove queste sono veramente più produttive. Chiarisco magari agli ascoltatori: Autostrade Benetton, Telecom Pirelli e quant'altro, e qua chiudiamo la parentesi. Professor Scarpa, allora io le lancio adesso, le rilancio le idee che ha il governo sulle misure di liberalizzazione su qualche settore per capire se le idee del vostro rapporto sono praticamente coincidenti, andando ad un tema molto caro per i nostri ascoltatori e per i consumatori, il tema dei carburanti. Secondo le ipotesi che sono allo studio in questo momento e che dovrebbero appunto vedere la luce nel decreto sulle liberalizzazioni venerdì in Consiglio dei Ministri, sul tema dei carburanti, i benzinai potrebbero essere liberi di acquistare almeno il 20% del carburante all'ingrosso a prescindere dal marchio del distributore. Ma su questo tema dell'esclusiva c'è una trattativa aperta, questo è un altro ambito che potrebbe portare avanti, non lo sciopero o la serrata, non so, nell'ambito appunto dei gestori, di distributori di benzina, come si chiama meglio la contestazione, la protesta. Questo per esempio è un tema che trova la vostra unione di divisione? Non è uno dei settori che è stato approfondito, ma sicuramente sì. E si noti, attenzione, che in questo campo non credo che ci sarà opposizione da parte dei gestori delle pompe, anzi, io credo che i gestori delle pompe sarebbero i primi a beneficiare di questo provvedimento. Il problema del settore della distribuzione dei carburanti è il pesantissimo oligopolio da parte delle imprese che detengono i carburanti, quindi le compagnie petrolifere. I benzinai sono soltanto l'ultima ruota del carro, l'ultimo anello di questa filiera produttiva, e credo che consentire loro di acquistare meglio, consentirebbe anche a loro di respirare di più, fare più cose, ottenere anche qualche margine superiore, però in questo caso credo anche con potenziali ricadute positive sui consumatori. Per quello che riguarda il tema banche e assicurazioni, lo avete toccato? No, anche questo è un tema che non è stato toccato, uno di quei temi che credo potrebbero essere toccati, anche se attenzione, in questo caso diciamo che non c'è un problema vero di liberalizzazioni che mancano, c'è un problema di concorrenza che funziona male, che è una cosa un po' diversa, diciamo non è con un tratto di penna che si possono cancellare dei provvedimenti legislativi che frenano il settore, però bisogna probabilmente dare maggiori strumenti anche all'autorità antitrust per lavorare in questa direzione. Io credo che le compagnie di assicurazione siano sistematicamente i soliti sospetti quando si parla di collusione, e sarebbe opportuno che le autorità antitrust avessero ampi poteri di ispezione e ampi poteri di sanzione di fronte a certe situazioni. Professor Scarpa, il numero delle farmacie con la possibilità di aprirne una ogni 3.000 abitanti, oggi sono autorizzate ogni 5.000 o 4.000 se in centri fino a sopra 12.500 abitanti, questa è una misura necessaria? Io credo che sia una misura assolutamente opportuna, ma io francamente sarei per una liberalizzazione anche maggiore, non capisco per quale ragione dobbiamo porre un limite quantitativo al numero di venditori di queste di medicine. Nel momento in cui è chiaro che ci deve essere un farmacista che svolge questa attività, ma non capisco per quale ragione dobbiamo essere noi a determinare quanti ce ne devono essere, che sia l'esigenza del mercato a dirlo, che sia la capacità del farmacista a decidere se una farmacia è successo o meno. Tra l'altro, da quello che si è appreso nel pomeriggio, tra le novità contenute in una nuova bozza della misura del governo in materia di liberalizzazioni, a quanto pare potrebbe arrivare anche la liberalizzazione degli orari e dei turni per farmacie, e questo ricordiamo che si associerebbe anche all'altro tema che si è scatenato all'inizio dell'anno, quando sono partite le liberalizzazioni degli orari per i negozi, per i centri commerciali. Professor Scarpa, so che magari questo, lei che come dire, si occupa di economia, è un tema che appassiona un po' meno, però anche a me inizialmente era sembrato un problema falso, non capivo per quale motivo i negozi che non hanno l'obbligo di aprire tutte le ore ma hanno la facoltà di farlo, quindi questo è un beneficio che potrebbe essere anche come dire, al loro vantaggio, in realtà avevo poco pensato ad una cosa che poi mi ha sollevato una commessa di un centro commerciale dove io vado praticamente perché è vicino a casa mia e non abito in una zona di Milano particolarmente diciamo difficile dal punto di vista della sicurezza, che è proprio quello della sicurezza. Mi chiedo come si faccia poi a mettere insieme un po' tutte queste problematiche. È chiaro che la nostra economia deve essere rilanciata, deve essere stimolata, però anche questi problemi non possono non essere tenuti in considerazione. Ma in realtà io rovescerei un po' il problema, nel senso che intanto nel momento in cui non c'è l'obbligo ma c'è la facoltà di tenere aperto, allora saranno i negozianti a decidere se vi sono le condizioni per farlo oppure no. In secondo luogo avere dei negozi aperti vuol dire sicurezza, cioè sono le strade deserte che mi fanno più paura, non tanto le strade popolate dove c'è traffico, dove ci sono persone, dove ci sono luci, quindi tutto sommato ho l'impressione che sia un po' un falso problema. E poi, detto francamente, dove il problema si pone, io lo riterrei che questo debba essere un problema di ordine pubblico, non un problema di carattere economico. L'ultima considerazione sul tema dell'energia, anche questo è molto importante per il nostro paese, in un contesto in cui si intende procedere su una strada che fino a questo momento non è stata percorsa, solo studiata più volte, ma non ci si è mai arrivati alla separazione societaria di Snam, Rete Gas da Eni. Professor Scarpa, so che questo è un tema che peraltro lei conosce anche molto molto bene, questo che vantaggio avrebbe per il nostro paese? Ma allora, la separazione in senso proprio proprietario sarebbe utile perché consentirebbe di avere un'infrastruttura che non è più proprietà di chi la utilizza, ma è aperta a tutti veramente e in condizioni di assoluta imparzialità. Penso ad esempio a chi voglia aprire un rigassificatore e connettersi alla rete. Se la rete è di Snam, questo potrebbe essere difficoltoso perché il rigassificatore gasificatore entra in concorrenza diretta con Snam che vende il gas, nel momento in cui la rete fosse pienamente indipendente questo rischio non ci sarebbe, quindi vuol dire dare maggiore certezza agli operatori, maggiore facilità per lo sviluppo delle infrastrutture delle quali abbiamo bisogno, sia per avere più offerta e quindi si spera prezzi più bassi, sia per avere una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici. Un'ultima cosa, mi dice che cosa avete pensato sul tema della giustizia e sull'università? Ma sul tema della giustizia io credo che quella sia forse la riforma più importante di tutte. Credo che l'aspetto fondamentale secondo me sia scoraggiare questo proliferare di cause civili. Il problema è avere un sistema che funzioni in modo più rapido, non è credo soltanto un problema di avere più risorse per i tribunali, credo sia un problema di avere meno cause civili da gestire, quindi scoraggiare le cause inutili, far pagare le spese a chi fa partire delle cause inutili in modo da ridurre in qualche modo la dimensione del contenzioso in Italia, che ha dimensioni assolutamente senza confronto, senza precedenti in nessun paese europeo. Sul tema dell'università non c'è da essere molto originali, cioè di essere molto coraggiosi nell'aumentare particolarmente la parte del fondo di finanziamento ordinario che è legato al merito e non viene data a pioggia sulla base storica. Bisogna avere il coraggio di premiare chi lavora bene, di tagliare i fondi a chi lavora male, ma questo evidentemente vuol dire una rivoluzione culturale pesante per il nostro paese. E queste erano le dichiarazioni del professor Carlo Scarpa, che questa mattina a Roma ha presentato appunto insieme ad altre personalità del mondo della politica e del mondo dell'economia questo rapporto sulle liberalizzazioni e una serie di spunti e idee da consegnare al governo, che per la verità sembra avere idee molto chiare su quello che è necessario fare in vari settori appunto nel nostro paese. Lo sapremo tutto molto bene venerdì, quando dal Consiglio dei Ministri verrà partorito il decreto appunto sulle liberalizzazioni. Adesso invece liberalizziamo molto velocemente la pubblicità, poi ci ritroviamo e naturalmente vi racconteremo che cosa è successo in questa giornata di borsa che si avvia a chiudere per Milano con un ribasso dello 0,31%. A tra poco. Sono quasi le 17.40, ancora buonasera da Deborah Rosciani e vedo tantissimi commenti ancora una volta sul tema delle liberalizzazioni. Prima dicevo ne parleremo ancora sicuramente per settimane, un ascoltatore dice per mesi, ne parleremo per mesi, è vero, certo che il tema della liberalizzazione per esempio degli orari, che non è al centro del pacchetto dei prossimi giorni, ma per la verità sui negozi siamo già partiti, questo è stato un aspetto appunto che ha già scatenato tante considerazioni da parte vostra. C'era un ascoltatore che prima così faceva un'osservazione sulla questione che ho affrontato con il professor Scarpa, il tema della sicurezza, apertura dei negozi e dei centri commerciali anche fino a tardi la sera, e faceva il paragone un ascoltatore con gli operai che lavorano in fabbrica e fanno anche i turni di notte. È chiaro che si pone un problema di sicurezza anche per queste figure, nessuno dice il contrario, ma sicuramente magari una banda di rapinatori ha un po' meno interesse ad andare a fare una rapina all'interno di una fabbrica dove c'è una catena di montaggio che va giorno e notte, piuttosto che in un centro commerciale dove per sicurezza, dove sicuramente sa di trovare una cassa con un po' di denaro, quindi non credo che proprio possano essere messe sullo stesso piano le due situazioni. Detto questo, non credo appunto neanche che, almeno lo spero, che il governo faccia dei provvedimenti appunto che non prendano in considerazione tutti questi aspetti. Lasciamo però appunto questo tema, lo abbiamo già fatto e sicuramente ne torneremo a parlare molto prossimamente. I temi di mercato invece oggi ci sono state delle considerazioni fatte dai vertici di Fitch Italia, l'agenzia di rating, che come sapete ieri sul mercato appunto si è diffusa la notizia che sarebbe pronta anch'essa a declassare l'Italia. Non utilizzerò il termine downgrading o downgrade perché gli ascoltatori si indispettiscono quando utilizziamo troppa terminologia finanziaria inglese, e avete ragione molto spesso. Il declassamento appunto dell'Italia che Fitch sarebbe pronta a fare potrebbe essere di due gradini anche in questo caso, è un'opzione, ha detto oggi Alessandro Settepani, che è il senior director di Fitch, quindi insomma adesso non vi sto a tradurre questa carica che in italiano è anche abbastanza complicato. In ogni caso appunto numero uno di Fitch in Italia, Però Settepani ha anche rassicurato che non ci si aspetta una bancarotta del nostro paese, un default, non è certamente la nostra aspettativa, anzi non l'ha detto Settepani, l'ha detto un altro manager di questa agenzia di rating, Edward Parker, perché oggi c'è stato appunto questo meeting a Milano da parte di questa agenzia. Un'altra cosa che volevo raccontare sempre a proposito delle agenzie di rating è quello che sta facendo la Consob relativamente a quanto accaduto sul mercato invece venerdì scorso, quando ricorderete Standard & Poor's ha deciso di emettere il suo verdetto, che era atteso da settimane, di declassare appunto l'Italia di 2 gradini e tante altre economie dell'Eurozona. La Francia ha perso la tripla A. Siccome la notizia si era diffusa prima della chiusura della seduta appunto del mercato, la Consob starebbe verificando l'andamento dei mercati venerdì dopo i rumors appunto sul declassamento dell'Italia da parte di Standard & Poor's, perché effettivamente la notizia è cominciata a circolare ben prima che formalmente fosse fatta conoscere appunto dalla stessa agenzia. Questa notizia sulle verifiche della Consob è stata data a Londra da Claudio Salini, che è il segretario generale dell'organismo di vigilanza sul mercato, e è stato interpellato appunto Salini a margine della visita del Premier Monti a Londra. Direi che con le agenzie di rating possiamo oggi lasciarla anche qua, tutta la storia appunto che le riguarda, almeno per questa giornata. Adesso andiamo invece a raccontarvi la giornata di borsa. Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. È stata una giornata un po' curiosa, partita piatta, poi le cose sono cambiate, hanno cambiato più volte direzione le borse europee, per chiudere poi sul finale contrastate. Milano è arrivata ad un certo punto anche a perdere qualcosa, se non mi ricordo male stamattina meno 0,8%, forse anche qualcosa in sì, più. Sì, si era approssimata a una perdita attorno all'1%, poi ha recuperato terreno a metà giornata sulle voci che il Fondo Monetario Internazionale rafforzerà le proprie dotazioni, voci che sono state assolutamente confermate nel pomeriggio dal fondo stesso, che ha detto che punta a raccogliere ulteriori 500 miliardi di dollari, ovviamente per poi distribuirli ai paesi in difficoltà e far quindi fronte alla crisi. Una notizia concreta che è stata apprezzata dai mercati, gli indici appunto quando si è diffusa la notizia, prima il rumor e poi la notizia, hanno addirittura cambiato rotta, alcuni hanno iniziato a guadagnare punti come Parigi, Francoforte in verità è sempre stata positiva, ma anche la stessa piazza affari si è portata sulla parità, per poi chiudere in calo invece dello 0,3%, del resto c'è molta attesa per quelle che saranno le trattative tra il governo ellenico e le banche creditrici. Però è stata una giornata anche tranquilla sul fronte spread, il differenziale di rendimento fra titoli italiani e titoli tedeschi a scadenza decennale ha gravitato per gran parte della giornata sui 460-65 punti base. Eleonora, devo fare la pausa adesso, ti chiedo un minuto di pazienza e poi ritorniamo per raccontare i casi del giorno di Piazza Affari. Della Sicilia nessuno parla, non è vero, avremo un piccolo approfondimento tra poco, lo dico agli ascoltatori che continuano a chiedercelo. Dateci notizie sulla nave, vogliamo sapere, alle 18 c'è il giornale radio, adesso come sapete tutti da anni c'è Focus Economia, parliamo di finanza e quindi questo è il momento in cui raccontare la seduta di borsa. Cominciamo con il titolo che si è comportato peggio oggi, Eleonora Micheli, meno 2,79% per Banca Monte dei Paschi, con un istituto che cambia i vertici e soprattutto deve chiarire con che modalità rafforzerà il suo capitale, perché ancora non è chiaro. Sì, oggi sono andate male tutte le banche, fatta un'eccezione di cui parleremo magari dopo, BPM che è salita anzi del 4%, quindi anche la stessa MPS non ha fatto eccezioni, come hai ricordato tu c'è appena stato un cambio ai vertici. D'altra parte MPS deve fare anche i conti con un rafforzamento patrimoniale, visto che l'EBA, l'autorità bancaria europea, ha chiesto un rafforzamento per oltre 3 miliardi. Mussari comunque oggi in sede ABI ha auspicato che vadano avanti le trattative con l'EBA e che quindi ci sia diciamo una certa diplomazia, e comunque ha confermato che le banche, non facendo diretto riferimento al Monte dei Paschi, comunque le banche che, alle quali l'EBA ha chiesto il rafforzamento confermano che non faranno aumenti di capitale. nonostante questo, appunto, Piazza Affari continua a tenere sotto d'occhio soprattutto il Monte, visto che è una delle prime indiziate a dover fare eventualmente un aumento di capitale, e così anche oggi i titoli hanno perso il 2,7%, ma sono stati tutto sommato in buona compagnia. Banco Popolare ha perso lo 0,88%, poi anche UBI ha perso l'1,3%, Unicredit, mentre sta andando avanti l'aumento di capitale, è l'1,2%. Ed è ritornato sotto i 3 euro. Andiamo subito ai migliori titoli, uno lo hai già citato, Banca Popolare di Milano più 4%, STM più 5,48%, in un periodo in cui nelle varie sedute solo di banche praticamente parliamo, qualche volta questi titoli sembra che ci siamo dimenticati. Cosa è successo oggi al colosso dei chip, Eleonora? Sì, oggi ha beneficiato dei dati record forniti da ASML, che è un'azienda di chip olandese, che è quindi un business affine a quello di appunto ST. Ironia della sorte, le azioni di ASML sono crollate del 3%, mentre quelle di ST sono salite appunto di oltre il 5%, ma questo perché si scommette che, come la società olandese ha riportato dati molto buoni, dati record, si scommette che anche ST possa fare altrettanto. Altri casi del giorno, rapidamente, sì, solo uno, ne abbiamo per un minuto. BPM più 4%, abbiamo detto, a riaccendere i riflettori sull'istituto è stato soprattutto un report di Mediobanca molto positivo, in cui si ricorda che è arrivato un nuovo amministratore delegato Montani, che c'è un investitore importante nella banca, che dirige anche i manager della banca, vale a dire Invest Industrial. Sia Montani che Invest Industrial hanno delle operazioni di successo alle spalle, chissà che le ripetano anche nella stessa BPM. Evidentemente Mediobanca ci crede. Benissimo, Eleonora, devo salutarti perché devo andare al nostro prossimo approfondimento, poi farò la carrellata dei titoli più estesa ai nostri ascoltatori. Per adesso grazie e buona serata. Ah, ci ha già salutato Eleonora, va bene. Comunque, tra l'altro, Wall Street, non ho detto, Dow Jones più 0,32%, Nasdaq più 0,75%, Standard & Poor's più 0,44%. Adesso finalmente andiamo in Sicilia. E visto che ce l'hanno invocata tanto gli ascoltatori oggi, parliamo della protesta dei trasportatori siciliani. Era cominciata in sordina domenica sera alle 24, montata piano piano. Oggi la regione è bloccata, scarseggiano i carburanti, scarseggiano anche i rifornimenti nei supermercati. La mobilitazione è stata organizzata da AITRAS e AIAS, due associazioni di categoria alle quali si sono uniti movimenti come Forza d'Urto, Movimento dei Forconi, sigle appoggiate dall'estrema destra. Anche per questo dalla protesta ha preso le distanze la Confindustria siciliana. Le richieste principali: il gasolio professionale per autotrasportatori, agricoltori, pescatori, allevatori, credito per tutte le categorie di artigiani e agricoltori a tassi super agevolati, allungamento dei limiti per l'orario di guida. Salvatore Bella è il presidente di AITRAS. Noi l'abbiamo fatto dal 16 al 20 per poter iniziare la protesta. Però se in questi 5 giorni non abbiamo riscontro di nessuno da parte del governo nazionale, allora la protesta continua. Però mi sembra che già domani mattina avete un incontro con il governatore lombardo e con ma i prefetti. Sì, ma il governatore lombardo però non può fare niente sui problemi che noi elenchiamo, perché è un problema innanzitutto di Roma e l'altro è dell'Unione Europea. Perché le norme comunitarie sulle ore di guida del codice della strada non li fa a Roma, li fa l'Unione Europea, e quindi i signori politici, quando le hanno proposto, non hanno tenuto conto che la Sicilia veniva penalizzata, perché l'economia siciliana vive prevalentemente sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli. Con queste nuove normative noi non possiamo portare più il fresco nei mercati del nord dell'Italia e del centro Europa, e quindi di conseguenza già abbiamo messo a tappeto la Sicilia. Con questa vostra protesta voi state mettendo davvero in ginocchio tanta parte dell'economia siciliana. Lo so, però purtroppo per poterci farci sentire è da 10 anni che andiamo dietro ai politici e ci fidiamo dei politici e delle associazioni nazionali, ma in 30 anni, c'è il suo leader Paolo Ogé, in 30 anni cosa ha fatto per questa categoria? Noi se ci troviamo oggi così tutti al collasso, in difficoltà, è perché non c'è stata mai una politica sindacale fatta seria. Come mai non si sono resi conto che con queste nuove normative sul codice della strada, se senza avere un'alternativa i siciliani venivano tagliati fuori, l'economia siciliana veniva mandata al disastro. Alternative quali sono? Le ferrovie non ce l'abbiamo, le hanno soppresso, ci abbiamo solo le autostrade al mare, ma non abbiamo i porti agibili e quindi ci abbiamo 4-5 navi che non riescono a soddisfare tutto il traffico di merci che c'è. Ma è vero che i supermercati in alcuni centri sono praticamente vuoti? Sì, perché questo nelle proteste che abbiamo fatto negli anni passati ci siamo accorti che in Sicilia la durata dei carburanti, delle scorte, dura al massimo 3 giorni, perché non vanno più lo stoccaggio come c'era una volta dentro i magazzini. Lei lo sa che si dice che in realtà molti autotrasportatori più morbidi sono stati costretti loro malgrado a unirsi alla protesta? Ma guardi, neanche io ci credevo quando ho visto che Paolo Ugè, la CNA, la Compartigianato, la FAE, tutta gente che si batte e dice che si batte per il mondo del trasporto hanno detto queste cose, cioè ci siamo rimasti anche noi, però purtroppo è proprio questo il punto, sono loro quelli che fanno una politica sbagliata, perché secondo me hanno perso il contatto con la base. Bella, lo avete sentito, tira in ballo Paolo Ugè, presidente di Conftrasporto, e sentiamo che cosa dunque Ugè ribatte, sempre al microfono della nostra Valeria De Rosa. Credo che ci sia molto protagonismo noi nel nostro mondo, l'attenzione nei confronti del trasporto siciliano noi la mettiamo, tanto vero che una delle questioni che è stata inserita nelle risorse stabilite dal governo riguarda proprio il bonus ambientale per favorire le autostrade del mare. Che poi la Sicilia abbia dei problemi particolari, su questo non c'è dubbio, ma io credo che non si possa illudere la gente dicendo loro che si può ottenere il cambiamento dei tempi di guida e di riposo, che è un regolamento comunitario. Non è possibile, la comunità non ce l'autorizzerà mai, così come non è possibile ottenere il gasolio professionale. È una questione che deve essere decisa all'unanimità dalla competente Commissione europea, che più volte interessati dai vari governi nazionali hanno sempre dato parere negativo. Io ho letto la piattaforma che l'AITRAS ha scritto e mi sembra proprio piena di richieste che non potranno mai essere esaudite. Gliene dico una: pensione a 60 anni con 30 anni di contributi. Se il Paese e tutti gli altri lavoratori sono in grado di far sopportare al sistema pensionistico italiano un simile aggravio, io veramente ho dei dubbi sulla lucidità di chi ha avanzato queste proposte. Lei dice magari nel caso specifico c'è una sorta di strumentalizzazione personale, però è evidente che la mobilitazione è imponente. Non c'è dubbio che l'iniziativa che è stata portata avanti dagli autotrasportatori siciliani in diversi modi, perché vi sono delle imprese che chiedono di poter circolare e non vengono fatte circolare e tengono i mezzi prudentemente nelle loro rimesse, perché quando qualcuno ha provato a farlo si è trovato bloccato, e quindi è una protesta che sta andando avanti. Mi ricorda molto quella dell'anno 2000, che guarda caso ha avuto come protagonisti gli stessi personaggi. Allora gli stessi protagonisti garantivano ai trasportatori siciliani che avrebbero risolto i loro problemi. Siccome le richieste più o meno erano quelle di quest'anno e molti di loro non risolvibili in sede comunitaria, il risultato è che oggi i trasportatori sono lì che protestano ancora. Abbiamo sentito dunque le posizioni sulla protesta dei trasportatori siciliani. Focus Economia adesso si ferma, GR, torniamo subito dopo. Sono le 18.08, ancora buonasera da Deborah Rosciani, siamo insieme questa sera a voi per Focus Economia. Tranquillizzo tutti, Sebastiano Barisoni torna domani. Adesso è tempo di raccontarvi quello che è successo oggi a Londra. C'era grande attesa per questa nuova tappa di questo roadshow, chiamiamolo così, che il premier italiano sta facendo nelle capitali europee. Oggi era appunto a Londra, il tema è affrontare la questione della crisi economica, il peso che grava sull'Italia. Nell'agenda londinese del Presidente del Consiglio che appunto era un'agenda molto ricca, 6 diversi incontri in meno di 9 ore. Il primo appuntamento è stato alla sede del Financial Times per spiegare al quotidiano finanziario i provvedimenti contenuti nella manovra, per illustrare anche le prossime riforme. Peraltro avete sentito anche nel giornale radio quanti dettagli ulteriori nelle ultime ore sono arrivati a proposito delle misure di liberalizzazione, delle quali abbiamo parlato nella prima parte del programma, e che arriveranno dal Consiglio dei Ministri venerdì prossimo. Poi stesso argomento è stato affrontato nell'incontro pomeridiano alla borsa londinese con oltre 100 investitori appunto internazionali che fanno base proprio alla City a Londra, e poi nel primo pomeriggio tappa a Downing Street con il Premier David Cameron. Peraltro molte agenzie riportano anche di un curioso siparietto di cui si sarebbero resi appunto protagonisti Monti e Cameron, che ad un certo punto, poi magari ve lo racconto più tardi quando ci collegheremo con il collega delle Sole 24 Ore che sta seguendo questo evento, vi racconterò appunto questo, di questo sguardo di intesa, di questa battuta che c'è stata tra Monti e Cameron, che in qualche maniera ha richiamato un po' quella famosa, anche se non proprio positiva per quello che riguarda l'Italia, che c'era stata con lo sguardo d'intesa, la risata sarcastica appunto fra Sarkozy e la Merkel, quando non c'era ancora Monti a capo del governo, ma c'era un altro presidente del Consiglio. Dopo Downing Street appunto Monti è andato alla London Stock Exchange, appunto la sede è andato alla London School of Economics per tenere appunto una lezione. Detto questo, la vigilia degli incontri di Londra è stata caratterizzata invece da molte prese di posizione che sono arrivate dalla Germania. Come sapete, la Merkel aveva detto: noi non abbiamo intenzione di aiutare concretamente il governo italiano nel problema appunto del costo del debito pubblico, perché l'Italia deve farcela da sola, Roma può farcela da sola, e allora noi volevamo anche un attimo ritornare ad approfondire un po' il versante tedesco, che è sempre molto interessante perché dalle decisioni della Germania dipenderà sicuramente anche molto dell'esito positivo dei prossimi incontri, dei prossimi vertici, per sbloccare definitivamente questa terribile crisi finanziaria europea, che lo stesso Mario Draghi, ieri numero uno della Banca Centrale Europea, ha ribadito essere molto grave. Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte per il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, quali novità sono arrivate oggi dalla Germania? Tra l'altro, diciamo, molte indicazioni ancora dalle agenzie di rating che hanno riguardato l'economia tedesca. Oggi Moody's ha declassato Commerzbank, peraltro è stata una sorpresa negativa, o c'era nell'aria questa notizia? Preoccupato? Beh, diciamo che Commerzbank è la banca tedesca che naviga in peggiori acque già da parecchi mesi. Le è stato chiesto di aumentare il capitale di oltre 5 miliardi di euro, adesso sembra che dovranno essere addirittura 6, quindi in un certo senso questo declassamento di Moody's era atteso. Sulla vicenda delle dichiarazioni di Monti va ricostruita un po' la storia, cioè Monti ha dato un'intervista al Financial Times nel quale diceva: noi abbiamo fatto il nostro dovere per quello che riguarda il risanamento dei conti, speriamo che la Germania ci dia una mano per quello che riguarda l'abbassamento dei tassi di interesse sul nostro debito, che è un costo molto alto per l'Italia. In realtà non c'è stata nessuna presa di posizione ufficiale da parte del governo tedesco. Chi ha rilasciato una dichiarazione su questo? I suoi consiglieri economici. I consiglieri economici della signora Merkel, Wolfgang Franz, che però è un economista indipendente, ma non sempre influenza direttamente la posizione governativa. È vero però che i tedeschi, la stessa signora Merkel e anche il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble ripetono da diverse settimane che questi salvataggi europei, comunque l'uscita dalla crisi dell'Eurozona, dovrà essere realizzata senza ulteriori contributi del contribuente tedesco. Quindi c'è una linea diciamo di rigore tedesca nel sollecitare gli altri a una disciplina, soprattutto dal punto di vista fiscale, ma c'è anche il tentativo, anche per non scontentare l'opinione pubblica, di dire: noi abbiamo dato, adesso vedremo se le cose si mettono a posto da sole. Sappiamo che non è così, in quanto ormai la crisi è arrivata al punto in cui non è più sufficiente che ogni paese faccia il suo compito a casa, ma è importante che l'Europa abbia una linea con la quale, e anche le risorse con le quali affrontare queste crisi dei singoli paesi. Ecco, le dichiarazioni di cui parlavamo prima appunto non sono direttamente attribuibili ad Angela Merkel, ma a, come dicevamo prima, il capo dei consiglieri economici della Merkel, al numero uno di questo istituto di ricerca, appunto lo ZEV. Detto questo, però, sono, mi pare di aver capito, almeno dal pezzo che hai scritto tu questa mattina, Alessandro, sulle Sole 24 Ore, che sono direttamente però riconducibili alla Merkel, le dichiarazioni relative al fatto che il pericolo di contagio dalla Grecia sarebbe diminuito, anche se in realtà nei giorni scorsi abbiamo appreso, appunto lo abbiamo raccontato anche noi, che la Grecia ha avuto questa battuta d'arresto nel negoziato con la comunità dei creditori internazionali per appunto la riorganizzazione, la ristrutturazione del suo debito. Questa è una questione che interessa molto alle banche. La Merkel dice che questo rischio è diminuito, a noi non sembra, addirittura sembra che tecnicamente, se non si arrivi appunto ad un accordo definitivo entro marzo, il default sarebbe tecnicamente ormai conclamato. C'è davvero questa sensazione in Germania? Ah, le notizie che arrivano oggi da Atene sono abbastanza incoraggianti, nel senso che la perdita che verrà imposta ai creditori privati sarà più alta, però sembra che si vada verso qualche forma di accordo. Diciamo che tutte le dichiarazioni, compreso quelle della signora Merkel che tu citavi, da parte di esponenti del governo tedesco, sono indirizzate a minimizzare o quantomeno a far presente nel negoziato con i partner europei che la Germania non intende impegnare altre risorse delle sue finanze pubbliche. Non sembra una posizione del tutto realista, e la stessa valutazione che il contagio della Grecia sia diminuito sembra una valutazione contraddetta dai fatti. Vediamo quello che è successo oggi con le aste portoghesi. Chiaramente il Portogallo è il prossimo paese in una linea di, una linea di ipotetici default. L'asta portoghese oggi è andata molto male, una delle ragioni è proprio il fatto che se ci si avvia a una soluzione con perdite pesanti per i creditori nel caso della Grecia, gli investitori cominciano a pensare che il Portogallo poi possa fare la stessa cosa. Quindi dire, come ha fatto la signora Merkel, che il pericolo di contagio è in diminuzione, credo che sia un po' un contraddire la realtà dei fatti. Sì, devo andare in pausa. Alessandro, mi spieghi perché? Perché io avevo dato le cifre prima, non avevo dato una definizione dell'asta portoghese di oggi così negativa. Mi sembra che abbia collocato tutti i 2,5 miliardi di euro che aveva in programma. I tassi non sono scesi come nelle attese, un po' come è successo al nostro paese la settimana scorsa? L'aspettativa era di un drastico ridimensionamento dei rendimenti? Beh, diciamo che però al di là dell'asta di oggi l'indicazione è che sul mercato secondario i titoli portoghesi sono ormai abbondantemente a rendimenti che possono essere identificati come un livello di default. Non c'è dubbio che gli eventi greci degli ultimi 3-4 giorni, cioè prima con la sospensione della trattativa con i creditori privati e poi con la probabile imposizione di perdite più gravi, queste abbiano pesato sulla situazione del Portogallo. Quindi il contagio, che ne dica la signora Merkel, c'è e vedremo cosa succederà poi dopo un eventuale speriamo di non dover mai tracciare oltre questa linea che tu hai indicato prima, dalla Grecia al Portogallo. Speriamo di doverci fermare lì e raccontarlo solo come ipotesi. Alessandro, ti ringrazio per adesso, buona serata. Ci fermiamo, abbiamo suggerimenti per chi è in viaggio e poi andiamo invece a Londra a capire a che punto è la ricchissima giornata di Mario Monti. Eccoci ritrovati in diretta, l'ultima parte della nostra trasmissione. Saluto subito Gerardo Pelosi, il Sole 24 Ore, rinviato al seguito del Presidente del Consiglio Mario Monti. Buonasera Gerardo. Buonasera a voi. Allora, ho parlato di un'agenda molto fitta per questo pomeriggio londinese del Premier italiano. A che punto è in questo momento, Gerardo? Facci un po' proprio la cronaca di questo pomeriggio, di questa giornata. Questa è una giornata veramente intensa che è cominciata questa mattina con un incontro di Monti alla Financial Times con il direttore Lionel Barber. Un po' ha reso omaggio a questo giornale inglese, al quale aveva rilasciato un'intervista che oggi è stata pubblicata, e che dà atto in un editoriale pubblicato sempre oggi degli sforzi dell'Italia. Poi l'incontro con il primo ministro Cameron, una colazione di lavoro per cercare di mettere a punto la fase 2 dell'Europa, e cioè dopo il fiscal compact, la necessità politica di rassicurare il governo tedesco, soprattutto i contribuenti tedeschi, una fase pensare alla crescita, all'occupazione in Europa. L'Italia si farà promotrice di un piano per l'occupazione da presentare al Consiglio europeo del 30, e su questo c'è uno spazio molto ampio di lavoro con gli inglesi. Subito dopo è venuto qui al London Stock Exchange, alla Borsa di Londra, dove mi trovo per un incontro con 120 investitori. A loro Monti ha lanciato messaggi rassicuranti, ha spiegato cosa l'Italia ha fatto per mettere in sicurezza i conti, per confermare l'impegno già assunto dal precedente governo Berlusconi di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013. Ma anche in Italia il nostro governo sta pensando anche a una fase 2 di crescita, e quindi la liberalizzazione delle professioni, farmacisti, municipalità, del gas. Venerdì sarà pronto il decreto, mentre lunedì è previsto il round finale sul mercato del lavoro dopo gli ultimi incontri con i sindacati e gli imprenditori. Gerardo, c'è stato un momento... sì, no, no, vai, vai, poi ti racconto c'è un'altra stato cosa. Un momento, sì, c'è stato un momento in cui un giornalista della BBC, con un'aria molto, direi anche poco educata, ha detto, dice, ma perché i contribuenti inglesi dovrebbero pagare un solo penny per i guai combinati da Berlusconi? In realtà c'è un dibattito in corso nel Regno Unito sul fatto che gli inglesi, i contribuenti inglesi, che soffrono anche loro la crisi, non intendono in alcun modo venire in supporto dell'euro, anche indirettamente, cioè nell'ambito del G20, attraverso un aumento di risorse al fondo monetario. E Monti ha risposto: finora, ma vi è stato chiesto qualcosa? È stato chiesto qualcosa al Regno Unito? Finora l'Italia non ha dato, non ha chiesto un solo penny al Regno Unito, non cambierà questa politica in passato. E no, non vedo neppure alcun rapporto tra i problemi del deficit italiano e le politiche di Berlusconi. Se non vogliono dare un euro neanche i contribuenti tedeschi, che sono all'interno dell'Unione Monetaria appunto europea, figuriamoci gli inglesi. Detto questo, ci sarebbe stato, poi ce lo confermi Gerardo, questo siparietto tra Monti e Cameron, lo hanno riportato alcune agenzie, dacci la tua diretta testimonianza, secondo il quale appunto anche in questo caso, per intervento credo di qualche giornalista, ma le agenzie non riportano appartenente a quale testata, praticamente sarebbe stata fatta a Cameron una domanda su Angela Merkel e la sua dichiarazione sul fatto di non sapere cosa la Germania possa fare di più contro la crisi dell'euro. Un giornalista avrebbe detto: avete qualche suggerimento? Cameron ha sorriso un po' imbarazzato, poi ha guardato Monti e gli ha chiesto se volesse essere lui a rispondere per primo, e Monti in inglese avrebbe risposto qualcosa come con piacere, primo ministro, chiaramente manifestando invece un po' di disappunto rispetto alla risposta da dare. È successo questo? Ce lo puoi raccontare? È la domanda che ha chiesto, che ha fatto il collega italiano dell'agenzia ANSA, e che ha, come dire, riproposto con altri attori quel siparietto che già si era svolto a Bruxelles tra Merkel e Sarkozy, quando un giornalista straniero aveva fatto la domanda su Berlusconi. Allora c'erano stati dei sorrisi imbarazzati di Merkel e Sarkozy. Oggi, nella domanda di quali suggerimenti si potessero fare alla Merkel, appunto Cameron ha detto go you first, rispondi tu per prima, rivolto a Monti, e Monti ha sorriso e ha detto vi ringrazio molto, è andato via, nel senso che non è stata data una risposta, ma è una mancata risposta che vale, diciamo, sicuramente molto di più di qualunque affermazione. Grazie. Ma a parte questo, Gerardo, guarda, come ultima domanda, quello che ci interessa capire invece qual è la sensazione che ha la comunità finanziaria londinese nei confronti dell'Italia, perché chiaramente l'aspetto più importante di questo gruppo di visite oggi era proprio probabilmente questo, quello di cercare di convincere la comunità finanziaria, che è di stanza ovviamente a Londra, a continuare ad investire nel nostro paese. So che oltre a banche ed assicurazioni, Monti ha incontrato anche i CEO, gli amministratori delegati di grandi aziende inglesi. Che cosa hanno intenzione di fare secondo te? Continueranno a dare fiducia al nostro paese, oppure il contribuente inglese vuole chiamarsi fuori anche da questo impegno? Ma il contribuente investitore che ha detto Fitch, e cioè Monti dà grande fiducia, c'è un cambio di passo sostanziale, e anche gli investitori inglesi capiscono che ci si trova di fronte a una primo ministro responsabile che conosce i problemi e sa come affrontarli per la prima volta dopo molti anni, ma c'è tanto ancora da fare e quindi, come dire, bisogna aspettare per, come dire, ricostruire quello che effettivamente è stato un patrimonio forse un poco perso negli ultimi anni, ecco, questo sì. Però c'è un'apertura di credito importante, hanno notato il cambio di linguaggio, il cambio di passo, l'assoluta proprietà e adeguatezza delle risposte di Monti ai problemi. Grazie a Gerardo Pelosi delle Sole 24 Ore, che continuiamo a far seguire, che lasciamo stare appunto perché deve continuare a seguire Monti. Allora, a proposito di una delle dichiarazioni che Monti ha rilasciato e che Gerardo citava prima, ve la faccio direttamente sentire. Quando Monti ha detto oggi, al termine dell'incontro col primo ministro inglese Cameron, l'Italia non chiede niente a nessuno, noi non chiediamo nulla alla Germania, ma la governance dell'Eurozona va migliorata. Non credo che i paesi dell'Eurozona, che sono individualmente in difficoltà perché devono affrontare importanti scadenze del loro debito pubblico, e tra questi c'è l'Italia, abbiano niente da chiedere specificamente alla Germania. Non credo sia questo il problema. C'è d'altra parte un problema riconosciuto da tutti e dai mercati in primo luogo, di una governance dell'Eurozona che non è ancora perfettamente adeguata all'altezza della sfida, e quindi quello che un paese come l'Italia non chiede a nessuno, ma si sforza di contribuire a identificare come soluzione e a mettere in opera con altri, e certamente il ruolo della Germania è un ruolo di particolare prominenza da questo punto di vista, gli sforzi vanno nel senso di appunto migliorare la governance dal punto di vista dell'osservanza delle regole di disciplina, dal punto di vista dei cosiddetti firewalls per prevenire o vincere le tensioni nel mercato e i possibili contagi, e ugualmente importante dal punto di vista delle politiche per la crescita europea. E questo è un tema che, come le mie conversazioni di oggi col primo ministro Cameron hanno bene messo in luce, è di grande interesse non solo per i paesi dell'Eurozona, ma per tutta l'Unione Europea. Con Focus Economia è tutto da Deborah Rosciani. Buona serata. Radio 24. La passione si sente.